sono di piccola statura e di pelle scura. Molti puzzano perché tengono lo stesso vestito per settimane. Si costruiscono baracche nelle periferie. Quando riescono ad avvicinarsi al centro, affittano a caro prezzo appartamenti fatiscenti. Si presentano in due e cercano una stanza con uso cucina e dopo pochi giorni diventano 4, 6, 10. Parlano lingue incomprensibili, forse dialetti. Molti bambini vengono utilizzati per chiedere l'elemosina. Spesso davanti alle chiese, donne e uomini anziani invocano pietà con toni lamentosi e petulanti. Fanno molti figli, che faticano a mantenere, e sono assai uniti tra di loro. Dicono che siano dediti al furto e se ostacolati violenti. Le nostre donne li evitano, sia perché sono poco attraenti e selvatici, sia perché è voce diffusa di stupri consumati quando le donne tornano da lavoro. I governanti hanno aperto troppo gli ingressi alle frontiere, ma soprattutto non hanno saputo selezionare tra coloro che entrano nel paese per lavorare e quelli che pensano di vivere di espedienti o addirittura di attività criminali. Bene, queste non sono le parole di Salvini. Sapete che cosa sono queste qua? Le parole con cui l'Ispettorato per l'Immigrazione del Congresso degli Stati Uniti descriveva gli italiani. Nel 1919, quando tutti gli italiani emigravano, gli Stati Uniti ci descrivevano così, a quelli come me e a quelli come Salvini. Buongiorno, bentornati su Radio Wombat, questa è la settimanale rassegna stampa che va in onda il lunedì, rassegna stampa che purtroppo non è registrata in diretta e quindi non comprende le notizie, seppur importanti, di rilievo della domenica 24 di giugno. Notizie soprattutto riguardo alla questione migranti, in quanto si sta svolgendo in questo istante, diciamo, per chi ci ascolta, per tutti che ci ascoltano lunedì, si è svolta ieri l'incontro a 16, il vertice a 16 paesi, che tratta proprio in particolare il regolamento di Dublino, la Convenzione di Dublino, che impone a ogni Stato di tenersi, fra virgolette, i richiedenti asilo che accedono in quel paese. Questa è una convenzione che è di fatto osteggiata fortemente dai governi dell'Europa meridionale, ma anche un grosso limite al percorso, alla strada che i migranti stanno percorrendo, in quanto tendenzialmente chi approda in Italia ha l'intenzione di andare a ricongiungersi con famiglie spesso già presenti in Europa e soprattutto nel nord Europa. Notizie anche di oggi che purtroppo non potremo dare, perché oggi 24 di giugno, perché riguardano le elezioni in Turchia che si stanno svolgendo, elezioni in Turchia dove il Presidente della Repubblica Erdogan cerca una conferma in una situazione veramente molto difficile sotto tanti punti di vista, ma la... Qui sono tutti argomenti che andremo a trattare in seguito durante questa rassegna stampa, ma iniziamo da un Twitter, cambiamo argomento, iniziamo da un Twitter che è comparso su una pagina, e ve lo leggo, dice così: questa è la nostra linea, non c'è accoglienza senza legalità. Si sta parlando di Dario Nardella, è una dichiarazione rilasciata nel giugno 2018, dove il sindaco di Firenze dichiara, in seguito ai fatti avvenuti nella periferia fiorentina, che hanno visto la morte di Duccio Dini. Duccio Dini, che è deceduto dopo essere stato travolto da due auto che si rincorrevano su Viale Canova, a bordo delle quali c'erano Debran e Antonio Mustafà, e Ahmed Remsi, abitanti presso il vicino campo nomadi del Poderaccio. Sto leggendo un comunicato pubblicato da Radio Cora. Vi ricordate Radio Cora? Ecco, forse è meglio se ve la ricordate. Comunque, Radio Cora, attraverso questo articolo di Luca, di Luca Bravi, ci mette in guardia da quello che sta succedendo a Firenze in particolare, ma un po' in tutta Italia. Ci mette in guardia raccomandandoci attenzione a non cadere nello sciacallaggio politico e mediatico. Ogni individuo è giudicato e condannato per le proprie azioni. Mai si possono trasportare le colpe di un singolo su un'intera comunità, che è quello che di fatto sta già succedendo a Firenze. Il Comune riporta il comunicato dell'onorevole Donzelli di Forza Italia, che si esprime così: gli assassini di Duccio devono scontare la loro pena in Macedonia, senza sconti di pena. Tutti i componenti della famiglia delle persone coinvolte devono essere allontanate da Firenze fino al quarto grado. Abbiamo esiliato Dante, possiamo mandare via qualche decina di criminali rom. A tutti gli altri rom del Poderaccio si è dato un ultimatum: fino al 31 agosto per mettersi in regola. Dal 1 settembre le istituzioni iniziano lavori per trasformare il campo rom del Poderaccio in un'area a disposizione delle grandi comunità dell'isolotto: parco giochi per mamme e bambini, un luogo con palestre e campi sportivi per i nostri ragazzi, laboratori per insegnare il mestiere di una volta e i nuovi lavori ai disoccupati, e infine un centro anziani per stare vicini ai nostri nonni. Questo è quello che ci porta Radio Cora, finendo, diciamo, puntualizzando sulla questione del quarto grado e quindi andando a cercare, appunto, a puntualizzare sulla questione degli alberi genealogici, dicendo che possiamo ricostruire di nuovo gli alberi genealogici, fissare percentuali di sangue e zingaro per deportarli, ma dobbiamo saperlo, sono categorie di razza quelle che costruiremo, che niente hanno a che vedere con la giustizia per Duccio. Questo un po' a mettere delle parole decise sul fatto avvenuto a Firenze, che ribadisco è un fatto specifico, ma si trova, è un po' il risultato di questi ultimi periodi che vedono una campagna di odio veramente spropositata, in particolare da parte delle formazioni della Lega Nord, ma nel caso nostro si può dire anche da parte del PD, visto le dichiarazioni del sindaco Nardella proprio riguardo a questo, anzi, non proprio, cioè, riguardo a questo argomento, ma senza scendere nei particolari, visto che anche troppo se ne parla e male. Un'altra città ha pubblicato un articolo che risale al 1999, che è un'intervista di Cristiano Lucchi ad Antonio Tabucchi. Si parla di Zingari, anche allora si parlava di Zingari, di Firenze, città della moda e del denaro, ma anche della città che resiste. Rilasciata all'altra città, Giornale delle Piagge, in occasione dell'uscita del suo reportage Gli Zingari e il Rinascimento, vivere da Roma a Firenze. E purtroppo, dice un'altra città, ancora di grande attualità nel paese dei censimenti etnici, delle ruspe e dei benpensanti democratici. Sulla pagina di un'altra città trovate il nuovo numero e potete scaricare e stampare anche questo articolo. Ve ne cito qualche pezzo. Appunto, questo reportage di Tabucchi rappresenta una descrizione molto dettagliata della Firenze di quegli anni, ma poi vedremo anche di questi anni, dove accanto alle manifestazioni che la rendono appetibile e famosa nel mondo, come ad esempio la Biennale della Moda, coinvolgono gli zingari, quelli che nessuno vuole vedere, esiliati dalla città perbenista negli angoli più nascosti della metropoli, comunque in condizioni di vita estreme. Vi è un'accesa requisitoria nei confronti di quegli amministratori pubblici che travisano il loro mandato e stravolgono il concetto di umanità a favore di prestazioni ad alto ritorno di immagine. Quindi tutto questo vediamo la come ancora è attuale. Vi è appunto una forte indignazione nei confronti di queste persone da parte di Tabucchi, questa è un'intervista, nei confronti di quelle persone che possono amministrare il denaro pubblico per queste sciocchezze. È probabile che ciò fortifichi, scusate, la loro immagine perché nel sistema in cui è strutturato il mondo moderno, quello dei mass media, il fatto che queste manifestazioni riscuotano attenzione in qualche modo li promuove. Vado avanti, appunto a una domanda che una domanda caratteristica veramente particolare che gli viene rivolta. In Gli Zingari Rinascimento introduci il concetto secondo il quale Firenze è una banconota falsa. Risponde Tabucchi, è una città che si spaccia per il mondo con una falsa immagine. Finché Firenze non cambierà questo volto sommesso, questo volto sommerso, scusate, non sarà una città trasparente e rimarrà una banconota falsa. Banconota falsa, in quanto lui sostiene, non sanno all'estero che questa è solo la sua immagine da cartolina edulcorata e di plastica. In realtà questa è una piccola città di provincia, un po' idiota, molto arrogante, che di culturale non produce niente e che anzi spende il denaro in una maniera del tutto sciocca. Tutto questo si può dire attuale, visto che proprio recentemente stanno arrivando esempi di arte e di cultura che niente hanno a che fare, niente di tutto ciò è stato prodotto o verrà prodotto a Firenze, ma bensì arriverà tutto da fuori, come, proprio come una merce. Continuando con l'intervista. C'è un'altra domanda. Leggo un titolo, sorpresa al gran ballo, Cenerentola regala 1 miliardo in cristalli. E ancora, il sindaco afferma, siamo di nuovo capitale. Ma ci chiediamo anche, capitale di che cosa? Dice Tabucchi. La descrizione dei balli con i diamanti, delle scarpette di Cenerentola, delle sere nelle ville aristocratiche. Insomma, non capisco come si possa passare così il limite del ridicolo e come queste persone non si rendano conto di essere protagonisti di una tragica farsa. Poi cita anche i luoghi di resistenza della Firenze, una Firenze che ne ha avuti tanti, sia di luoghi sia di persone, di personaggi. Cita i fratelli Rosselli, Calamandrei, La Pira, Paolo Balducci, Don Milani, Pratolini, Montale, Bonsanti, Vittorini, Gadda, Landolfi, Loria e naturalmente cita la comunità delle piagge con il centro sociale Il Pozzo e Don Santoro che svolgono un ruolo fondamentale per la periferia, soprattutto la periferia delle piagge così disagiata, ma anche per tutta la città. Poi successivamente l'intervista va avanti chiedendo: questo che descrivi è un fenomeno soltanto fiorentino? Risponde Tabucchi dicendo: il mio libro, il mio sguardo si soffermano su Firenze, questo è vero. Io non sono un sociologo, sono semplicemente uno scrittore che ha fatto un percorso e lo ha descritto. Purtroppo temo che questa compionatura corrisponda a una volgarità che ormai sta aleggiando su tutto il nostro paese. L'Italia, che è stato povero, che all'improvviso è diventato ricco, senza quei valori che hanno caratterizzato la civiltà europea dell'Ottocento, è successo quello che prevedeva Pasolini, ovvero una spaventosa mutazione antropologica rivolta verso un'omologazione sul brutto, che paradossalmente ha trovato in questa città, rappresentante del bello, la sua più visibile Epifania. Questo, come poter dire, posso solo ribadire l'estrema attualità di queste parole, nonostante siano passati 19 anni da questa intervista, quindi più di 19 anni dalle visite di Tabucchi e dalle interviste, dal reportage di Tabucchi, tutte queste parole si possono veramente traslare e cambiare semplicemente i personaggi che stanno in cima, che stanno all'amministrazione, ma poi le parole sono le stesse e anche i metodi siano gli stessi, nonostante magari Adesso si parli meno di mass media, si parla più di social network, però forse questo peggiora ulteriormente le cose in quanto le informazioni sì, riescono a raggiungere più persone in un modo forse più veloce, ma le informazioni dei social network sono ancora, sicuramente si può dire, ancora più approssimative nei contenuti di quanto non lo fossero e non lo sono i mass media attuali. Con questo diciamo termina la parte dedicata alla città fiorentina e ai problemi che l'hanno portata alla ribalta negli ultimi giorni, alla ribalta anche in quanto vi sono state diverse visite del ministro dell'Interno Matteo Salvini proprio in vista delle elezioni, dei ballottaggi alle elezioni nelle varie città toscane dove la Lega sta cercando di portarsi avanti. Elezioni, ripeto, che sono in ballottaggio che è avvenuto in data del 24 giugno e che quindi vi saranno risultati disponibili adesso mentre gli ascoltatori sentono questa rassegna stampa, ma avendola registrata il giorno prima non ho accesso, per fortuna o purtroppo, a questi tipi di dati. Io vi mando un pezzo e ci risentiamo fra pochissimo. Thank you. Avete sentito i CCCP con Palestina? Scusate, ma tornando alla stampa, cambiamo argomento, non parliamo più dei Rom, ma continuiamo a parlare del ministro degli interni. Un mondo senza di noi, migranti e irregolari. Provate a immaginarlo, un mondo senza di noi sarebbe ormai impossibile. Ci ritirassimo d'un colpo dalle vostre città e dalle vostre campagne, dagli appartamenti dove i vostri vecchi pensano alla solitudine del giorno dopo, dove scomparite in fretta la sera perché non sapete che fare del tempo che vi resta, passate furtivi sulle strade per timore di incontrare qualcuno di sospetto. La paura è diventata la vostra fedele compagna di talamo e gli occhi faticano a trovare un fratello. Senza di noi finireste proprio male. Vi chiudereste senza scampo dietro le vostre feritoie, con la luce filtrata dal sole, senza calore. Più nessuno da ospitare per essere salvati dalla prossima guerra. La vostra frutta rimarrebbe senza mani e senza piedi per arrivare lontano. I vostri politici sarebbero obbligati a parlare un'altra lingua, differente da quella ristretta dall'odio che li trasforma in vincitori. Un mondo senza di noi somiglierebbe a una giostra senza bambini e a un parco senza giochi. Dovreste ricominciare da capo ad industriarvi per trovare un altro nemico. Nemmeno a pensarlo. Senza di noi, che farebbero le vostre pulsioni umanitarie così sofisticate ed efficaci? Chi avreste da salvare, sistemare, accudire e infine catalogare? Come farebbe la vostra economia a funzionare senza l'apparato che avete negli anni elaborato per proteggervi? Ammettete che la vostra vita prenderebbe un'altra piega. Vivere senza muri attorno, resi inutili come soprammobili, vi obbligherà a scrivere nello sguardo dell'altro senza cancellature. Non avrete altre scuse da accampare e dovrete fare i conti con la vostra storia. Eravate come noi, non fosse per la geografia che si è sposata con la storia da un'altra parte, stesse barche, solo più grandi, perché eravate più numerosi di noi a partire senza saper dove. A dire il vero, siete stati voi che per primi siete venuti a cercarci e da allora era nostra intenzione ricambiarvi la visita. Senza di noi avreste dimenticato quelle porzioni di voi che ha generato ciò che siete. Un mondo senza di noi, ammettiamolo, è difficile a pensare. Sarebbe come una domenica senza campane. Sarebbe una barbarità. Un mondo senza di noi finirebbe col sapore di vuoto che vi ha sedotto e poi abbandonato sulle sponde delle frontiere in cui confidate. Non vi salveranno, lo sapete bene, i tentativi di mettere da parte fallimento falliranno perché siamo della stessa razza. I figli vi rammentano un futuro che sentite come una condanna precoce. Anche per questo un mondo senza di noi sarebbe destinato al fallimento e poi alla liquidazione. Sarebbe un mondo dove la speranza arriverebbe in ritardo perché senza documenti legali, proprio come la vita che, come la morte, cercate di tenere a bada per evitare le ferite dell'incertezza. Vivreste senza di noi come in una grande prigione a cielo aperto, fingendo la democrazia e la libertà che avrebbe barattato in cambio di tranquillità. Perfino le parole che assomigliano alla giustizia finirebbero senza di noi per scomparire inghiottite della vostra codardia. Vi siete venduti, senza saperlo, ai mercanti di felicità, a Tagliandi, con crociere premio nel Mediterraneo. Il mondo senza di noi andrebbe alla deriva, come un naufragio. Ecco un mondo senza di noi, un naufragio con spettatori pronti a carpire le immagini mentre stanno affogando. Vorreste che qui non andassimo, che di qui non andassimo da dove siete prima venuti. Immaginate di poter controllare i nostri occhi, ma le impronte dell'anima vi sfuggiranno sempre. Un mondo che non avrebbe più posto per il mistero è destinato a girovagare per sempre nei gironi dei supermercati che hanno reso le vostre città un simulacro di civiltà. Vi sfuggiremo come sabbia tra le dita di quelle mani che sanno costruire quello che avete tradito, la solidarietà. Senza di noi non ci sarebbe nessuno a prendere i bus la notte in città e persino i vostri asili d'infanzia sarebbero senza balocchi. Le favole vi hanno abbandonato perché avete dimenticato come si fanno gli aquiloni e le barche con la carta di giornale. Un mondo senza di noi sarebbe come una strada deserta di nomi, di volti e di storie. Questo articolo è comparso, si intitola Un mondo senza di noi, migranti e irregolari, è comparso su Contropiano a cura di Mauro Armanino, e la voce delle persone che si trovano in una situazione non sconosciuta al nostro paese, nel senso che un tempo al posto loro c'eravamo noi, anche come avete potuto sentire dalle parole di Elio Germano all'inizio di questa rassegna stampa, parole lette da un comunicato delle autorità statunitensi nel 1919, quando chi emigrava e chi immigrava nei paesi, fra virgolette, sviluppati, economicamente, diciamo, più avanzati, erano proprio gli italiani che in gran massa si riversavano in territori oltreoceano, ma non solo, si può citare veramente tutto il mondo, trovando di fatto un'accoglienza, la stessa accoglienza che noi stiamo a chi si sposta per il mondo. Si parla di lavoro, si parla di mani che raccolgono frutta, mani che raccolgono frutta, e purtroppo dobbiamo dire anche che di mani che raccoglievano frutta. Mi sto riferendo all'omicidio di Soumaila Sako, migrante, lavoratore nella piana di Gioia Tauro, residente nell'agglomerato di San Ferdinando, che è stato ucciso poche settimane fa beh, diciamo che le autorità parlano di un furto di lamiere da un terreno sotto sequestro per evidenti illegalità, irregolarità nello smaltimento dei rifiuti, se così le possiamo chiamare. Noi ci rifacciamo naturalmente al sito di USB dell'Unione Sindacale di Base, in quanto Soumaila Sako era una persona, un lavoratore che si batteva per i diritti sia dei migranti, sì dei migranti, ma in particolar modo dei lavoratori. Lavoratori che nella piana di Gioia Tauro, in particolare, diciamo, per quanto riguarda la Calabria, ma si possono citare altri posti simili, con problematiche simili in quasi tutto il sud Italia, dalla Campania alla Sicilia, alla Puglia e tanti altri, dove i lavoratori lavorano in condizioni veramente difficili, sia proprio le condizioni di lavoro, perché spesso non. Perché diciamo nelle mani dei caporali, ma anche in una situazione di emergenza abitativa e sanitaria veramente, veramente pesantissima. L'USB, in questo articolo, che è l'articolo di sabato 23 giugno, parlano della manifestazione che vi è stata proprio sabato a Reggio Calabria. Manifestazione in nome di Soumaila Sako con un USB. Vi era la presenza di diverse persone, in particolare la presenza di Aboubakar Soumakoro, che abbiamo visto tra l'altro negli ultimi giorni molto spesso sul grande schermo, ma che ha capitanato, ha guidato questo corteo. Reggio Calabria, 23 giugno 2018, in migliaia hanno sfilato questa mattina a Reggio Calabria con l'Unione Sindacale di Base per la manifestazione nazionale nel nome di Soumaila Sako, indetta per dire no allo sfruttamento e sì ai diritti. Superata la misteriosa sparizione dei bus prenotati per i lavoratori nella piana di Gioia Tauro e lo stantio rituale poliziesco dei controlli dei pullman che hanno causato quasi 2 ore di ritardo, il corteo, colorato e combattivo, si è mosso da Piazza De Nava e, percorrendo Corso Garibaldi, ha raggiunto Piazza Italia. Con i braccianti calabresi hanno sfilato quelli di Rignano e delegazioni provenienti da tutta Italia. Presenti anche il sindaco della città metropolitana, Domenico Falcomatà, e quello di Riace, Mimmo Lucano. che dichiara: governo vigliacco, fai il forte con i deboli. In una manifestazione idealmente collegata a quella dei lavoratori della logistica di Piacenza, lavoratori della logistica che stanno affrontando delle lotte proprio con OSB e stanno anche portando a dei risultati. Vi è stato l'intervento finale di Aboubakar Soumahoro del coordinamento lavoratori agricoli OSB. Il corteo si è trasformato in un ultimo saluto collettivo per Soumaya Sako, la cui salma partirà lunedì da Lamezia Terme con destinazione Mali, dopo una lunga sosta a Fiumicino. Siamo qui oggi non in base al colore della pelle né alla provenienza geografica, ha detto Soumahoro, ma da sfruttati che gridano no agli sfruttatori in una regione saccheggiata e senza pietà. Soumaya era un agricoltore costretto dai cambiamenti climatici a lasciare il Mali. Ha voluto fermarsi qui per coltivare le terre con gli altri lavoratori, stando dalla loro parte, organizzandoli insieme all'USB. Un bracciante, un uomo, un sindacalista, un padre, un compagno. Tre cose ci ha chiesto. La sua famiglia, verità e giustizia per la sua fucilazione, un ritorno della salma in patria, la continuazione del suo impegno sindacale. Noi stiamo esaudendo le loro richieste e non ci fermeremo perché abbiamo sete e fame di diritti. Soumahoro si è poi richiamato alla situazione politica italiana. Viviamo in un contesto nel quale 7 milioni di persone sono colpite dalla povertà. La stragrande maggioranza al sud. Alcune forze politiche rispondono scatenando una campagna di odio, di caccia alle streghe, facendo credere che così rialzeranno il PIL. Ovviamente è falso, loro seminano odio, noi speranza e umanità, noi, gli schiavi delle campagne, i precari, i disoccupati, siamo tutti nelle stesse condizioni, vogliamo rompere le catene dello sfruttamento, perché schiavi mai. Siamo uomini e donne libere e andremo avanti a testa alta. La manifestazione si è poi conclusa sulle parole di un bracciante che ha voluto mandare dal palco un messaggio a Matteo Salvini, eletto al Senato in Calabria, proprio in Calabria, e mai interessatosi, nemmeno dal ministro dell'Interno, all'omicidio di Soumaya Sako. L'africano non è un animale, siamo tutti uguali. Matteo Salvini, che di fatto si sta occupando molto della questione, se non solo si può dire che il suo unico argomento è questo, è questo, e ne parla sempre in termini si possono giudicare, mi potrei anche permettere di giudicarle se in termini semplicemente buoni o cattivi, ma questo lo lascio a voi, è una cosa piuttosto banale. Di fatto, io dico che ne parla in un modo approssimativo e populista, e tutto questo non fa altro che continuare a portare tante persone dalla parte loro, e questo poi con le conseguenze che stiamo osservando, di fatto l'evoluzione di un governo che non ha né capo né coda, ma solo odio. Purtroppo le notizie che dobbiamo darvi, che vediamo sempre in questa direzione qua, non sono belle. C'è la denuncia da parte dell'ex OPG occupato Iesò Pazzo di Napoli di spari contro un ragazzo del Mali, di una grave aggressione razzista avvenuta il 20 giugno. L'ex OPG ha pubblicato un comunicato sulla loro pagina Facebook il 21 giugno dicendo: Napoli, grave aggressione razzista, spari contro un ragazzo del Mali. Ieri, verso mezzanotte, su Corso Umberto a Napoli, un'auto si accosta a Bouyaoui, un ragazzo che sempre ci aiuta con il movimento migrante, l'ex OPG occupato Iesò Pazzo. Un compagno, oltre che un ragazzo socievole e pieno di entusiasmo, per affrontare una battaglia difficile come quella contro il razzismo. Ieri stavo tornando a casa dal lavoro, come ogni sera, ma questa volta è stato diverso. Dal finestrino spunta la canna di un fucile che gli esplode un paio di colpi contro. Uno di questi gli raggiunge l'addome. L'auto fugge nella notte. Bouyaoui rimane a terra, chiama gli amici, che lo portano prima a casa e poi all'ospedale. Ora è tornato a casa, ma in forte stato di shock. Fortunatamente si tratta di un fucile a pallini che gli ha solo provocato una contusione. Il clima nel paese ed in città è torrido. Addirittura c'è qualcuno che si diverte a simulare l'esecuzione dei neri. Manco fossimo in Libia, dicono i ragazzi e amici di Boiaghi. Colui che è un ragazzo arrivato giovanissimo in Italia, è stato accolto nello SPRAR di Napoli, Les Onlus, e dopo essere stato riconosciuto meritevole di protezione, ha cominciato subito a lavorare come cuoco. Oggi gestisce un ristorante di cucina africana e qualche mese fa è stato anche ospite in televisione a MasterChef. Tutto questo via un appello di solidarietà a Boiagui e naturalmente contro il razzismo che imperversa sempre di più nelle strade del nostro paese. Non possiamo non citare, non aggiornare sulla situazione nei pressi delle frontiere che sempre più sono teatro di inseguimenti, di aggressioni, di repressione e di intimidazione da parte delle autorità. Possiamo vedere quello che sta succedendo nel Mediterraneo, la situazione è veramente molto difficile, le navi non hanno accesso ai porti, questo di fatto gli viene vietato sia dallo Stato italiano, ma poi di fatto anche da quasi tutti gli altri, vi è stata questa eccezione da parte del governo spagnolo nell'accogliere una nave di migranti, però si può parlare di eccezione in quanto sappiamo bene che anche le politiche spagnole non sono state assolutamente tolleranti nei confronti delle persone che scappano da enormi difficoltà. Un aggiornamento particolare lo diamo dalla frontiera del Monginevro, perché è un punto dove vi è un grosso attivismo da parte della popolazione dell'Alta Val di Susa e della parte francese della frontiera. Una frontiera, quella delle Alpi, che è stata, diciamo, costringe ad affrontare enormi difficoltà durante il periodo invernale a causa della neve e delle pericolosità nel valicare queste montagne, a causa del rischio valanghe, a causa dell'inesperienza delle persone che la attraversano, a causa dello scarso equipaggiamento o addirittura nullo se non fosse per le attività di solidarietà della valle. Il rifugio Chess Gesù, perdonatemi la pronuncia francese che non è proprio ottima, comunque il rifugio autogestito che è sorto nell'occupazione di una della chiesa è un punto importante per i migranti, in quanto qui possono trovare conforto dopo i respingimenti e possono trovare solidarietà prima del tentativo di attraversare la frontiera. Loro portano via via gli esempi della repressione, e lo fanno da oramai svariati mesi. Gli ultimi sono, ve li leggo, hanno pubblicato il 21 giugno questo comunicato sulla pagina Facebook Chess Gesù, rifugio autogestito, dicendo appunto: aggiornamento della frontiera del Monginevro tra convocazioni alla PAF e respingimenti. Portano gli esempi di repressione quotidiana. Dicono: l'altra notte la PAF ha gonfiato di botte un ragazzo che pregava di non essere rimpatriato in Italia. Naturalmente, quando parliamo di PAF, parliamo della polizia di frontiera francese. La polizia respinge sempre più frequentemente anche i minori, spesso ingannandoli sulle destinazioni finali del viaggio in furgone, che inesorabilmente riporta in Italia. Gendarmi e polizia pattugliano sentieri in quad, bicicletta e a piedi, spesso minacciando di sparare a chi cerca di passare questo confine senza aver la pelle e i documenti richiesti. D'inverno, naturalmente, questi sentieri sono coperti di neve e le piste attraversate da migliaia di sciatori, meta turistica, essendo appunto l'Alta Valle una meta turistica per ricchi. D'estate, invece, queste bellissime montagne si trasformano in campi da golf. Campi da golf molto curati, e addirittura chi accede a questi campi da golf ha la possibilità di cimentarsi nel golf transfrontaliero, come appunto viene chiamato. Vi sono 18 buche a cavallo di due paesi, un po' in Francia e un po' in Italia. Quindi addirittura si dà la possibilità alle persone, alle palline, di attraversare liberamente i campi da golf e la frontiera, ma non si dà questa stessa possibilità a persone che purtroppo per loro, ma anche per noi, hanno il colore della pelle sbagliato. Citano poi alcuni esempi, alcuni episodi proprio di repressione e dicono: camminare nei boschi tra Claviere e Monginevro è pericoloso, rischi di incontrare brutti ceffi sul cammino, come un gendarme in bicicletta che ti sbarra la strada. Poco tempo fa, tre amici e amiche che passeggiavano tra queste montagne militarizzate sono stati state fermati, fermate, e sono stati chiesti i loro documenti. Una di loro non li aveva. Il gendarme, a sella della sua bici, ha chiamato rinforzi e i tre sono stati caricati su una camionetta e portati alla PAF, Polizia di Frontiera, per accertamenti. Dapprima le guardie hanno provato a mettere pressione dicendo che il loro intervento era dovuto a una segnalazione. Qualcuno li avrebbe visti marcare i sentieri con una bomboletta spray, ma una volta arrivati in centrale sono stati perquisiti e nulla è stato trovato nei loro zaini. I tre, sono stati rilasciati a una convocazione della PAF per un'audizione libera perché sospettati di, aiuto all'ingresso e soggiorno di persone straniere. Naturalmente, tutto questo è opera del simpatico procuratore di Gap, il procuratore di Gap che già abbiamo visto ordinare dei fermi in occasione di un corteo che ha attraversato la frontiera con al suo interno dei migranti, proprio che si sta svolgendo in questo tempo. Possiamo citare anche il secondo episodio che dice: una macchina con a bordo tre ragazzi viene fermata a qualche centinaio di metri dalla frontiera da un ragazzino malconcio che si dichiara molto malato e che necessita di andare in ospedale. Chiede di essere portato alla PAF per farsi prendere in carico dal sistema francese, in quanto minorenne, non accompagnato e in gravi condizioni di salute. La legge francese infatti prevede la presa in carico da parte dello Stato di qualsiasi minorenne non accompagnato presente sul territorio, non solo la legge francese ma il diritto internazionale. Le sue condizioni fisiche sono visibilmente critiche. Il ragazzo fa fatica a parlare e perfino a sedersi. Afferma di non essere stato curato nei centri di accoglienza italiana. I tre gli danno un passaggio e dicono alla PAF che il ragazzino deve andare in ospedale e che è minorenne. I poliziotti di frontiera fanno scendere il ragazzo e lo portano dentro. Poi, uno a uno, i tre vengono interrogati sui fatti. Gli viene proposta la scelta fra un'audizione libera e un fermo per favoreggiamento all'immigrazione clandestina. Di fatto i tre sono trattenuti per 3 ore e mezzo interrogati, messi sotto pressione. Vengono rilasciati con un appuntamento per l'indomani. Anche qui pare che sia stato proprio il procuratore di Gap a voler procedere con l'inchiesta. Intanto il ragazzino malato viene interrogato, poi gli viene detto che lo porteranno all'ospedale di Brianzon, gli fanno firmare un foglio che naturalmente non può comprendere, lo caricano su un furgone insieme ad altri due minorenni, i quali appunto credono tutti di andare a Brianzon, invece poi si ritrovano buttati per strada all'inizio di Clavière, alla frontiera italiana. Il ragazzino malato ci riprova, viene fermato, forma un'altra macchina, si fa ridare un passaggio, però questa volta l'autista ha competenze mediche e può confermare il suo estremo bisogno di cure all'ospedale. Nuovamente invece viene respinto alla frontiera, questa volta sembra sia stata la prefetta delle regioni in persona che si mobilita per il caso e lo respinge. Quindi a questo punto qualcuno lo porta in ospedale in Italia e i medici chiamano immediatamente le forze di polizia e i carabinieri per prima cosa lo sottopongono a un esame osseo per verificare che sia minorenne e poi lo fotosegnalano. Il ragazzino viene portato in un centro per minori in Bassa Val di Susa e da lì all'indomani sarà ricoverato in un ospedale. Il terzo episodio è quello riguarda il fatto che nessuno dei sei fermati sopracitati si presenta alle convocazioni per farsi interrogare dalla PAF. Non avevano nessuna intenzione di presentarsi volontariamente a un appuntamento non obbligatorio e che si prevedeva poco galante con la polizia per farsi riempire di domande e potenzialmente trattenere in un fermo, accusati di favoreggiamento all'immigrazione clandestina. La polizia di frontiera chiama i telefoni privati di alcuni dei convocati. Viene detto loro che se non si presenteranno a breve finiranno nella lista dei ricercati. Addirittura poi sono andati a cercarli a casa. La repressione, e qui concludo, verso chi di passaggio e verso i solidali continua, ma nemmeno la solidarietà si arresta. Nelle vostre convocazioni non ce ne facciamo niente. Questo è quanto succede nelle frontiere nord, ma dobbiamo anche menzionare le frontiere a sud dell'Italia, quelle del Mediterraneo, che sono teatro di veramente di stragi quotidiane. Si parla di più di 1.000 morti dall'inizio dell'anno e solo nei giorni fra il 18 e 19 giugno, circa 220. Vi riporto un comunicato di Mediterranean Hope che in data 22 giugno commenta quanto dichiarato dalla Guardia Costiera italiana nella nota rivolta ai comandanti delle imbarcazioni che si trovano nella zona antistante la Libia, in cui si precisa di rivolgersi al centro di Tripoli e alla Guardia Costiera Libica per richiedere soccorso. Guardia Costiera Libica, dicono ancora di Mediterranean Hope, su cui pesano pesanti accuse di condotte violente durante le intercettazioni in mare e collusione con i trafficanti, come evidenziato da un recente rapporto di Amnesty International. Tutto questo ci riporta anche al caso della Open Arms e non è l'unica, la Open Arms. Delle navi che sono state sequestrate e poi addirittura portate a processo. Il Tribunale di Ragusa si dichiara che nel caso della Open Arms, precisando che le responsabilità di ricerca e soccorso non possono essere delegati a paesi che non sono in grado di offrire porti sicuri. Porti sicuri che naturalmente è impensabile di trovarli in Libia, visto la situazione attuale della Libia divisa in più fazioni, con uno dei governi, uno solo, che è riconosciuto a livello internazionale, riconosciuto anche fra l'altro in modo piuttosto dubbio, e poi la presenza di tante altre fazioni, sia di tipo tribale che invece proprio delle vere e proprie milizie, che occupano i territori e stanno portando avanti una guerra civile che oramai dura da 7 anni, è veramente impensabile di poter trovare un posto sicuro in questo paese, o almeno lo è per noi, cosa che però non sembra pensare lo stesso, non sembrano pensare lo stesso i governi europei, visto l'intesa trovata dall'ex governo italiano, dal ministro Minniti, tanto lodata dal nostro amato PD e dal nostro amato Matteo Renzi, che di fatto rimette nelle mani dei trafficanti persone che cercano di raggiungere l'Italia per fuggire proprio da quei trafficanti. In tutto questo vi è una campagna di mail bombing, contro la Guardia Costiera, dove centinaia e centinaia di persone hanno mandato mail agli indirizzi della Guardia Costiera, e non posso fare altro che invitarvi a fare lo stesso. Ve li do e sono guardiacostiera@guardiacostiera.it oppure guardiacostiera@mit.gov.it. Sempre per rimanere sul tema frontiere, sempre per rimanere sulla frontiera mediterranea, vi leggo un articolo, vi cito un articolo comparso a opera di Fabrizio Gatti, comparso su L'Espresso, che si intitola Migranti, archiviata l'inchiesta sulle ONG, il soccorso in mare non è reato, quindi non vi sarà nessun processo per i volontari della Sea-Watch. Il GIP di Palermo accoglie la richiesta della procura antimafia. L'assistenza ai migranti in difficoltà è un obbligo previsto dalla legge. Quindi, gli equipaggi delle navi in questione non hanno commesso nessun reato. Il GIP di Palermo, Guglielmo Nicastro, ha ordinato l'archiviazione di una delle inchieste che nel 2017 avevano fornito argomenti giuridici alla campagna contro le ONG, la stessa sostenuta dall'attuale ministro dell'Interno Matteo Salvini e avviata dal suo predecessore Marco Minniti, ne parlavamo giusto poco tempo fa. I loro interventi a colpi d'arma da fuoco, si sta parlando delle navi della Guardia Costiera Libica, i loro interventi a colpi d'arma da fuoco sia contro le navi delle ONG sia contro i profughi che tentano di raggiungerlo, come possiamo pensare che si tratti di operazioni di salvataggio. Parla anche del cambiamento di approccio che vi è stato a cavallo di questo grande accordo fra il ministro Minniti e queste milizie libiche. Poco prima e subito dopo la stretta di mano di Minniti con i libici, però il vento cambia all'improvviso. Molte questure che dipendono direttamente dal Ministero dell'Interno si mettono al lavoro per non smentire la stretta ai soccorsi decisa dal capo del Viminale. Quindi, nel caso specifico di queste navi si sta parlando, erano accusate di essere collusi, di partecipare al traffico di migranti, in quanto erano state analizzate, insomma, era stato detto che di fatto aiutavano i trafficanti nel introdurre persone clandestine all'interno nei territori italiani. Le autorità siciliane di fatto parlano ancora di persone che aiutano nei traffici e soprattutto nel recupero dei gommoni. Una volta svuotati, perché il motivo era proprio questo: l'accusa sosteneva che queste navi lasciavano anche i gommoni in acqua, per poi poter essere recuperati dai trafficanti. Ma le indagini non hanno mai dimostrato chi siano i complici dei trafficanti libici. Fra l'altro, insomma, le navi delle ONG che soccorrono i profughi alla deriva agiscono sempre su segnalazione e richiesta del MRCC di Roma, che sarebbe Maritime Rescue Coordination Center, che in poche parole si tratta della centrale operativa della Guardia Costiera Italiana. In tutto questo dobbiamo anche segnalare che con l'accordo dobbiamo anche ricordare che grazie all'accordo stipulato da Minniti, le la Guardia Costiera Libica ha potuto acquistare materiali e attrezzature, diciamo, per il soccorso dei migranti in mare. Peccato che tutte quelle attrezzature non sono idonee al soccorso in mare, perché si tratta di mezzi per la difesa e quindi totalmente inadeguati ai trasbordi delle persone da un'imbarcazione in estrema difficoltà, in estrema precarietà, come possono essere i gommoni e le barche che vengono utilizzate per le traversate, fino appunto, a una lancia, a un battello da guerra che, insomma, prevede delle banchine molto alte, e quindi veramente negli ultimi mesi abbiamo avuto modo di vedere quanto tutto questo fosse disastroso. Vi sono video che di fatto mostrano le navi della Guardia Costiera Libica che lasciano cadere in acqua persone, si vedono migranti minacciati con le armi da fuoco, ma non solo migranti, anche le stesse navi di ONG che vengono minacciate con spari e con quanto più possibile, quanto più duro per far sì che. Per intimidirli e far sì che, insomma, non facciano più il lavoro che è fondamentale e che stanno svolgendo. Detto questo, vi spezziamo con questa grande lettura, questo grande fiume di parole con il Gogol Bordello con Immigrant Punk. Thank you. Torniamo sulle frequenze di Radio Wombat, cambiamo parte del mondo, ma non troppo, andiamo in Medio Oriente. Andiamo in Medio Oriente dove non possiamo non citare ciò che oramai da decenni, però negli ultimi anni, nelle ultime settimane in particolare, sta succedendo. Al popolo palestinese abbiamo visto in avvicinamento alla Nakba tutte le manifestazioni pacifiche di avvicinamento alla frontiera tra la striscia di Gaza e i territori occupati palestinesi, scusate, di fatto manifestazioni che hanno avuto un esito piuttosto tragico, visto la morte di 132 palestinesi e il ferimento di svariate migliaia di persone, cosa che però non ha scoraggiato il popolo della striscia di Gaza nel manifestare le proprie difficoltà e il proprio dissenso, la propria voglia di libertà, libertà che viene negata da uno Stato israeliano che utilizza tutti i metodi senza veramente la minima vergogna nel farlo. Popolo della striscia di Gaza che non sta a guardare, non subisce in modo passivo, ma trova tutti i modi per contrastare e per portare avanti la lotta, fino ad arrivare addirittura alle armi di carta. Vi leggo un piccolo articolo tradotto in italiano di un quotidiano, di una rivista inglese, Al-Arabi Al-Jadid, e dice: nella striscia di Gaza gli aquiloni non sono più giocattoli per bambini. Queste armi di carta sono diventate il simbolo di una guerra sbilanciata e iniqua, cominciata il 30 marzo con una protesta degli abitanti di una striscia lungo il confine con Israele e che finora ha causato la morte di almeno 132 palestinesi. Secondo la Croce Rossa, i manifestanti feriti dai proiettili israeliani sono 13.000 ed è in corso una crisi senza precedenti. Da Gaza i palestinesi continuano a lanciare aquiloni e palloni esplosivi o incendiari che, secondo le autorità israeliane, hanno provocato almeno 400 incendi nel sud di Israele e hanno bruciato più di 2.400 ettari di terreni coltivati causando danni stimati in 2 milioni di dollari. Si tratta di una nuova tattica palestinese per colpire economicamente Israele, commenta il quotidiano Panarabo. In risposta, l'esercito israeliano ha colpito 9 obiettivi militari di Hamas nel nord della striscia di Gaza il 18 giugno e altri 25 nella notte tra il 19 e il 20. Qualche giorno prima aveva ferito 2 palestinesi che stavano lanciando un pallone incendiario. È quasi da non crederci come da una parte si possano utilizzare missili di precisione e proiettili che arrivano da chilometri e chilometri di distanza e da un'altra invece le armi utilizzate sono degli aquiloni che da sempre rappresentano un simbolo di pace e che in questo caso però vengono utilizzati come di fatto come arma incendiaria. Ma non solo, perché questi aquiloni dotati di reti da pesca appese riescono a essere un buon antidoto nei confronti dei droni che attraversano i cieli palestinesi. Trovate un articolo, la traduzione di un articolo di Middle East Eye sulla piattaforma, sul sito dell'amicizia italo-palestinese, che spiega dettagliatamente i metodi utilizzati, e vi sono appunto anche diverse testimonianze di palestinesi che stanno portando avanti la loro lotta. Per rimanere in Medio Oriente, non possiamo non citare le elezioni in Turchia che si svolgono, si stanno svolgendo ora, il 24, domenica 24. Purtroppo, ripeto, questa trasmissione è registrata e non posso darvi i risultati, ma sono di fatto è un momento importante per la Turchia, perché Erdogan sta cercando in tutti i modi di rimanere al potere. Vi cito un'intervista comparsa su Contropiano, intervista a Murat Çınar, giornalista freelance turco, da anni residente in Italia. Vi è un preambolo che spiega che le elezioni anticipate in Turchia sono solo l'ultima delle trovate di Erdogan, che ci ha abituato a accelerazioni e svolte repentine. Quali sono le motivazioni di questa scelta? Vi sono più tipi di motivazioni. Vi sono motivazioni ufficiali, che sono state dichiarate nel mese di aprile dal leader del partito nazionalista MHP, Devler Bacheli, e queste sono principalmente riassumibili in tre punti: la crisi economica che sta arrivando a cavallo, a galoppo, le dinamiche internazionali e una preoccupazione elettorale. Queste non sono mai state smentite da parte del governo o dal presidente della Repubblica Erdogan, che anzi ha dichiarato che grazie al referendum presidenziale dell'anno scorso la Turchia è pronta a passare totalmente al sistema presidenziale. I tre poteri, giuridico, legislativo e giudiziario, vanno accentrati per rispondere al terrorismo, alla crisi economica e alle incognite internazionali. Il governo è totalmente corrotto. Queste sono, diciamo, quelle non dichiarate, ma in questa intervista le si trovano. Appunto, il governo totalmente corrotto cerca di evitare in tutti i modi i maxi processi a proprio carico, che appunto dal 2014, per blindare il proprio operato per altri 4 anni, che, diciamo, a questo punto diventa assolutamente necessario far sì che nessun altro possa andare al governo, perché durante questi 4 anni, a partire dalle rivolte di Gezi Park, che sono state represse duramente, insomma, sono successe cose veramente di una gravità inaudita. Si può parlare di sfruttamento, si può parlare della Turchia. Una delle soluzioni prospettate è appunto quella di fare della Turchia in hub del gas, dicono su Contropiano. Spiegando meglio, questo progetto è molto delicato. Il governo svende i suoi territori, alimenta le commesse di imprese a lui vicine, ma non c'è un serio guadagno economico per il paese. L'obiettivo è il mantenimento del potere attraverso questa grande rete di aziende legate all'HKP, cioè quindi praticamente il governo turco ha investito veramente poco, ha fatto sì che arrivassero quasi tutti investitori esteri per finanziare l'economia turca. Di fatto, però, ha svenduto il suo territorio, mettendo nelle mani delle imprese sia i lavori sia i lavoratori. Vi è stato poi il fatto del fallito Golp, che si è chiuso, con il quale si è chiusa la grande fase di protesta partita dal Gezi Park. Si è aperta invece una stagione repressiva violentissima, e dopo mesi di terrore nel paese sembra emersa la voglia di fare politica. Come spesso succede, una cultura repressiva crea una polarizzazione estrema, quindi lo stato di emergenza è ancora in atto e numerose manifestazioni sono state impedite. La Di fatto cita anche appunto l'operazione militare Ramoscello d'Ulivo che è ripartita poco tempo fa verso territori, questa volta iracheni, ma vede la sua grande causa che la sua grande il motivo è appunto l'andare a stanare i curdi, una campagna, fortissima campagna anti-curda, come ben sappiamo, ma si può dire che c'è anche una grande campagna mediatica, naturalmente è un punto cardine delle politiche neo-ottomane di Erdogan, a partire dalla scuola, che tenta di dare copertura a questa incessante ondata d'odio. Addirittura alcuni governatori locali hanno parlato dell'esercito ottomano che sarebbe dovuto arrivare addirittura fino ad Aleppo. Le operazioni militari hanno interessato le zone di frontiere dei monti Qabil e Sinjar, si sta parlando nel nord dell'Iraq, dove ci sono le basi del PKK, ed è stato trovato un accordo con gli Stati Uniti nella gestione delle città di Manbij. Ma, dice Contropiano, il culmine della contrapposizione si raggiunge se il curdo, e parlo dei territori siriani, si è organizzato nel confederalismo democratico, che è un esperimento amministrativo, culturale, economico, politico, che non può essere facilmente digerito dal conservatorismo neo-ottomano. Altre fonti sostengono che queste elezioni saranno sì importanti, però di fatto non determinanti, perché chiunque vada al governo, che sia l'attuale regime, il partito di Erdogan, che pare possa arrivare a raggiungere la maggioranza assoluta, o che siano gli oppositori, di fatto la situazione turca è talmente complicata, talmente tragica economicamente, che non vi sarà mai un vincitore, ma bensì perdenti. L'ultima notizia che diamo la riportiamo da una pagina Facebook, Bingset, sotto il confine, pagina Facebook relativa al documentario girato che documenta appunto ciò che sta succedendo nei luoghi occupati dalle milizie curde dello YPG e dello YPG e dalle forze democratiche siriane, comunicato che denuncia la presenza di truppe italiane in Siria. Si intitola proprio così: che ci fanno le truppe italiane in Siria? Il ministero smentisce, ma la realtà è un'altra. Un contingente di militari italiani è stato avvistato nella provincia di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, che si sta unendo all'operazione Tempesta di Cisirie, lanciata dalle forze democratiche siriane per liberare una delle ultime zone sotto il controllo dell'ISIS. La notizia è stata confermata da alcuni combattenti internazionali delle YPG, che hanno visto ed incontrato sul campo i gruppi di carabinieri sul fronte di Al-Dashisha, mentre operavano insieme alle forze speciali francesi. Fonti locali hanno riferito la presenza di circa 50 uomini armati che indossano la divisa italiana. Non è chiaro che cosa stanno facendo, ma i turchi avevano già dato l'allarme già il 12 giugno scorso, con l'agenzia di Stato Anadolu. Aveva pubblicato un articolo affermando che l'Italia ha inviato truppe nella provincia di Deir ez-Zor, nella Siria orientale, per sostenere il gruppo terroristico YPG PKK. Citando fonti anonime, la stessa agenzia riferisce che gli italiani sarebbero arrivati nella seconda settimana di giugno nella città di Al-Hasakah, di passaggio verso Deir ez-Zor. Naturalmente è stato interpellato il tenente colonnello Massimo Carta, e lui di risposta ha dichiarato che le notizie sulla presenza di truppe italiane in Siria non sono assolutamente vere, non ci sono truppe italiane impegnate in Siria. Il dispiegamento, dicendo fra l'altro, precisando che il dispiegamento delle forze armate italiane in paesi stranieri deve essere necessariamente approvato dal Parlamento italiano. Di fatto, nella 17ª legislatura, per l'anno 2018, non risulta che sia stato pianificato o votato una missione militare in Siria, però di fatto vi sono dei carabinieri in questi territori. Ma perché ci si chiede a fare cosa? A fare cosa non è molto chiaro. C'è chi dice che siano lì per fare delle consulenze, c'è chi dice che siano per fare degli addestramenti. Di fatto, quello che noi sappiamo è che da quando sono finite le operazioni militari contro Daesh nella provincia di Deir ez-Zor, gli interessi di Stati Uniti, Russia e del governo di Bashar al-Assad si sono fatti più forti, vista la forte presenza di giacimenti petroliferi e di gas naturale. Forse la conferma della presenza di truppe italiane in supporto all'SDF sarebbe sconveniente nei rapporti con la Turchia di Erdogan, si chiedono loro. A poco più di 3 mesi dalla visita ufficiale che portò Erdogan a Roma, gli equilibrismi politici costituiscono un nodo centrale per continuare a mantenere e coltivare gli intricati e fittissimi interessi economici in atto tra Italia e Turchia. A questo punto citano diversi esempi, diverse aziende che stanno operando in Turchia, tra i quali il gruppo Ansaldo, che fa parte appunto a numerosi cantieri, oltre a essere appunto l'appaltatore principale del terzo ponte sul Bosforo, ma ha costruito l'autostrada Gebze-Izmir, diversi tratti della metropolitana di Istanbul, il ponte sopra la baia di Izmit. Poi stiamo parlando della Staldi, dell'azienda Staldi, che addirittura sta costruendo il ponte di Halic, collegando Topkapi a Galata, un mega ospedale ad Ankara. E non è la sola, perché vi sono altre aziende, tipo la Impregilo, che sta costruendo la centrale idroelettrica a di Cetin a Sirt, e il campus della salute a Gaziantep, l'impianto di depurazione delle acque di Istanbul e via discorrendo. Non possiamo non citare la Finmeccanica Leonardo, naturalmente, e il gruppo italo-francese Eurosem, per l'export di armi e tecnologia di guerra. Quindi qui si ferma la rassegna stampa settimanale. Non rimanete in ascolto, non perdetevi Senza Frontiere. Successivamente vi sarà la coppia di Passaggi a Nord-Ovest e Passaggi a Nord-Ovest. Stampa rassegnata, per poi alle 4:30 avere la diretta di Fuoco alle Polveri. Con questo io vi saluto e vi do il buon ascolto.